Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, vi parleremo di libertà senza veli, di mani pesanti in guanti di lana, di relativismi distratti e della trave elettronica nell'occhio dell'oliva.